Spanetto della Columbia, che è il secondo volume, diciamo, dei Bootleg Series. In pratica la Columbia ha deciso, visto che circolavano varie versioni pirata, registrate un po' alla meglio, delle tournée, insomma, dei vari concerti fatti in quegli anni da Miles Davis, sta pubblicando una serie di dischi che raccolgono appunto queste esperienze, queste tournée del quintetto. Il disco è composto, sono tre CD e un DVD. Naturalmente a livello musicale è estremamente elevato. Oltretutto questa è una formazione, Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter alle anse, Chick Corea al piano elettrico, Dave Holland al basso e DeJohnette alla batteria. È una formazione della quale è Wayne Shorter quello più ormai consolidato nel gruppo da diversi anni. Gli altri sono abbastanza all'inizio della propria collaborazione con Davis. Dave Holland è stato il primo a entrare in questo gruppo, poi si aggiungono Chick Corea e DeJohnette. Questa è una tournée fatta anche per, come dire, mettere a punto quello che è l'interplay tra i vari musicisti e quindi anche le tensioni, le costruzioni dei vari assolo nelle composizioni che vengono esposte poi successivamente in Beach Brew, soprattutto in Beach Brew, poi anche in una serie di altri dischi che usciranno successivamente. Wayne Shorter come protagonista, dicevamo, di oggi. E Wayne Shorter ha una carriera strana, per uno dei musicisti che attualmente si può definire tra i più importanti, sulla scena musicale internazionale. È una carriera strana perché, tutto sommato, all'inizio, alla fine degli anni 50, entra, dopo qualche esperienza, diciamo, precedente fatta col gruppo di Horace Silver, ma la grande collaborazione, la prima grande collaborazione è quella con Art Blakey, e peraltro è proprio questa collaborazione che dà vita probabilmente al periodo più felice, più creativo, più maturo della carriera di Art Blakey. Lo stesso discorso si può dire successivamente per la collaborazione con Miles Davis. Infatti nel 64, poi alla fine del 64, Miles Davis, che peraltro era alla ricerca di un sostituto di Coltrane già da diverso tempo, provando una serie di altri sassofonisti, pur bravi, però nessuno riusciva ad integrarsi in modo così completo con il linguaggio di Davis. E appunto questo qualcuno viene individuato in Wayne Shorter, giustamente peraltro. Il suo fraseggio ha un debito enorme sicuramente con Coltrane, però ha una sua personalità forte, ha una caratteristica di queste frasi quasi suggerite ma poi spezzate, sono linee che si rincorrono sempre in modo concitato e frammentato. Questa è una caratteristica che mantiene per tutta la sua attività. Ma alla fine della sua collaborazione con Davis vede un periodo piuttosto lungo, tutto sommato abbastanza opaco. È anche in questo caso non è protagonista, ma collaboratore nel Weather Report, che tutto sommato la leadership più autorevole, diciamo, la responsabilità maggiore gravava sicuramente su Joe Zawinul, anche pur essendo un coprimario, diciamo, Wayne Shorter. Però è anche questa un'esperienza che si trascina per molti anni, con fasi anche di ottimo livello, però tutto sommato è un bottino piuttosto scarso quello che può raccogliere Shorter rispetto alle qualità musicali che ha. E anche i lavori fatti successivamente, insomma, in tutti i vari decenni successivi, sono lavori spesso di maniera, spesso viziati da un cattivo gusto nell'interpretare un jazz rock di secondo ordine, tutto sommato. Però Il grande momento, diciamo, di svolta avviene all'inizio degli anni 2000, quindi già un musicista maturo, anzi anziano, e l'incontro appunto con una formazione che lo vede dal 2002 fino ad oggi, tra formazioni, probabilmente una delle formazioni migliori da poter sentire dal vivo, soprattutto da poter sentire dal vivo, visto che le testimonianze discografiche sono veramente modeste. Infatti la formazione, oltre a Wayne Shorter, al solito soprano e tenore, Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso e Brian Blade alla batteria. Quindi un quartetto classico che trova una maturazione nel primo decennio degli anni 2000, una maturazione folgorante, eccezionale. Le testimonianze discografiche sono modeste. Io probabilmente una grossa responsabilità l'hanno anche la casa discografica, la Verve soprattutto, che non trova mai il modo giusto per testimoniare questa esperienza. Nell'ultimo lavoro che è uscito prima di quest'anno, che è del 2005, e testimonia indubbiamente è un buon livello, un buon risultato. Ma il momento migliore, direi, che la testimonianza migliore di questa formazione accade proprio in questi giorni, che è uscito questo nuovo lavoro intitolato Without a Net, un disco che vede Wayne Shorter riprendere la collaborazione con una sua vecchia casa discografica, che è appunto la Blue Note, la storica Blue Note. Il risultato è, direi, ottimo, e benché non esista la possibilità di lasciare testimonianza discografica di quello che è il pathos che comunica il gruppo sentito in concerto dal vivo, però direi che questo è decisamente un ottimo esempio di una serie di concerti che sono brani presi da una serie di concerti dati in una tournée del 2011. Parte un brano lungo, particolare, che vede anche la presenza di una formazione di archi, che è stata registrata lo stesso anno negli Stati Uniti. Un brano lungo che anche quello comunque, pur con delle differenze, ma riesce ad avere un culmine di grande spessore. Ascoltiamo alcuni brani da questo bel disco perché vale la pena di conoscere. Ascoltiamo i primi due, sono tutte composizioni, 9 brani che compongono il disco, sono tutte composizioni di Wayne Shorter, che è sempre molto caratterizzante nelle sue composizioni, sono riconoscibili, il suo modo di comporre è decisamente riconoscibile, è uno stile suo, di grande livello musicale. Ascoltiamo i primi due brani. Thank you. Thank you. Stiamo ascoltando il quartetto, l'ultimo lavoro uscito per il quartetto di Wayne Shorter. E una cosa piuttosto interessante è anche quella di sentire che il fraseggio, la costruzione della musica è la stessa da moltissimi anni. Ha sempre questa cifra di lettura della narrazione musicale. Una cifra originale, particolare, questa frammentazione è inconfondibile e peraltro non è certo seguita da molti altri. È una sonorità piuttosto distorta dalla frammentazione che continuamente suggerisce. Naturalmente la cosa che non stupisce, perché ormai sono una dozzina d'anni che lavorano insieme, però l'interplay che viene a crearsi tra il pianoforte di Danilo Perez, il contrabbasso di Patitucci e la batteria di Brian Blade è decisamente magico. Peraltro ognuno di loro ha un ruolo importante, non esiste un accompagnatore punto e basta, esiste sempre un'integrazione perfetta dove ognuno è indispensabile alla tenuta della musica che si suona. Ascoltiamo un altro paio di brani sempre presi da questo bellissimo lavoro uscito recentemente, due brani, uno dei quali è anche il conclusivo dell'album. Thank you. Questo era l'eccellente ultimo lavoro prodotto dal quartetto di Wayne Shorter, con Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci contrabbasso e Brian Blade alla batteria. Un lavoro uscito per l'etichetta Blue Note, la storica etichetta Blue Note, titolato Without a Net. Questo è anche l'ultimo brano per oggi. Vi ricordo che le informazioni su quanto abbiamo ascoltato, sui brani ascoltati, li potete trovare sul nostro sito radiocittafugico.it nella sezione musica. Con questo è tutto, salve e alla prossima. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.